do senz'altro la parola. Sì, buongiorno a tutti, c'è un po' di confusione. È uno stile del dibattito culturale, anche se in realtà italiano, aggiungere mettere il mezzogiorno in una specie di codicillo finale per dire che è un'altra cosa. In questo caso non si può fare, perché non è un'altra cosa e non è un'ultima cosa, ma è la prima cosa, cioè gli anglo-americani sbarcano sulle coste della Sicilia e in Sicilia il dopoguerra comincia in anticipo, prima ancora del 25 luglio, anzi prima ancora dell'8 settembre e addirittura prima del 25 luglio. Anzi, la vicenda della battaglia di Sicilia va a formare una specie di 8 settembre, di proto-8 settembre, o almeno così viene spesso interpretata a causa degli episodi come la resa senza sparare un colpo della piazza forte di Augusta, lo sbandamento di intere parti dell'esercito italiano o l'accoglienza festosa delle popolazioni a quelli che a pieno titolo sono occupati. Adesso vedremo bene se si sentivano occupanti o liberatori, ma vengono spesso o in genere interpretati come liberatori dalle popolazioni. Qua metto subito in guardia, per quel poco che so di storia militare, la battaglia di Sicilia non è una passeggiata per gli angloamericani, soprattutto per gli inglesi. I tedeschi si battono bene, anche quelle truppe italiane che erano il vero esercito si battono, quelli che non si battono sono un'enorme massa di milizie territoriali che non stavano lì per figure, poi sono una delle manifestazioni della demagogia e dell'improvvisazione del regime, perché poi in realtà non solo non hanno posto resistenza, ma hanno creato quella confusione che ha reso più difficile che si imponesse resistenza. Ma ovviamente tutto questo non avviene per caso e per ragioni tecniche, ma anche per ragioni politiche, che rimandano appunto alla crisi di consenso del regime già molto evidente, e quindi anche questo ci rimanda all'idea del proto 8 settembre. Vista da mezzogiorno, il 43-44 dunque comincia, è un dopoguerra che comincia prima, è un governo alleato che è più lungo e importante, anche se nella dicitura della commissione alleata di controllo la C cade nell'ottobre del 44 e dunque, adesso magari ci ritorneremo, il governo militare alleato spesso è un organismo anche già al sud che più che governare osserva, consiglia, spinge, rampogna e spesso non ottiene quello che vuole. Quindi da questo punto di vista l'idea della pace punitiva, siamo ancora in guerra, questo inizio di dopoguerra sembra portato per a me sembra portato per punitiva, ma forse è, come è stato detto, una mancanza di interesse politico, e d'altronde questo viene spesso ribadito dagli alleati: il governo militare alleato serve solo per dare la possibilità alle truppe di marciare più rapidamente in avanti se riesce a ottenere questo risultato, va bene, come cosa. Un governo militare alleato più lungo. Due, la mancanza della resistenza. Molto spesso la storiografia meridionale si è cercata di agitarsi per dimostrare che la resistenza c'è stata anche a sud, un'agitazione che ha evidenti finalità identitarie, perché moltissime delle cose di cui ragioniamo hanno finalità identitarie, cioè che si riesce ancora si continui a discutere di morte della patria sì o no, stiamo in una cultura identitaria, perché storiograficamente il concetto non ha nessun valore, non bisogna trovarlo più, o forse ha avuto il valore quando è stato tirato fuori per ragioni polemiche. Dunque, anche questi tentativi da sud di elevare le quattro giornate di Napoli o qualche altro episodio di resistenza antitedesca alla formare una specie di contratto della resistenza sono deboli, perché ovviamente per la ragione detta in ogni caso la resistenza a sud non ci poteva essere per un timing evidente. Poi può darsi ci siano anche altre ragioni, che tutti quanti sappiamo, cioè che l'identità antifascista nel mediogiorno è molto più debole, ma d'altronde anche questo può essere derivato o da ragioni endogene di lungo periodo o dalla tempistica degli anni, che avrebbero reso in ogni caso impossibile. Questo è naturalmente il problema, casomai. Il problema del neofascismo di Salò esiste in una misura minima, tutto quello che forma la resistenza nel sud non c'è. E un terzo elemento, l'Italia del dopoguerra che emerge nel mezzogiorno molto prima che nell'Italia centro-settentrionale, è diversa da quella che, cioè questo precoce dopoguerra meridionale è diverso dal dopoguerra italiano che sarà nel dopoguerra, nel senso che non è un'Italia dei partiti di massa, è un'Italia in cui i partiti di massa come dire, acquisiscono loro importanza partecipando a un'esperienza governativa del Regno del Sud. E invece un'Italia che porta all'attenzione alcuni movimenti politici, è un'Italia monarchica, non è repubblicana, ed è un'Italia che porta all'attenzione alcuni movimenti neoliberali e di tipo personalistico. Vogliamo semplificare molto, è il movimento qualunquista. Qualunquista quindi che viene da una radicale delegittimazione del sistema dei partiti nascenti, la cosiddetta, quello che i qualunquisti chiamano l'esarchia. Dunque, anche questo va, lo dobbiamo, potremmo veramente tradizionalmente viene applicato, viene considerato sotto la categoria, catalogato sotto la categoria del ritardo e della diversità meridionale. Spesso si dice nel mezzogiorno non c'è stato il fascismo vero, non ci fu il fascismo vero. Il qualunquismo è una specie di malattia di un'Italia arretrata che non capisce quello che succede. C'è del vero in questa rappresentazione, ma non è tutto. Innanzitutto perché il qualunquismo mostra una delegittimazione di base della soluzione cielinista, che non è casuale, non è transeunte, non è ritardo, ma dimostra una profonda, indica una delegittimazione del nascente sistema dei partiti, prima ancora che sia nato, che avrà la sua lunga tenuta nella storia dell'Italia repubblicana. Quanto alla questione del fascismo, mi sento di poterla invece drasticamente ridimensionare. Il fascismo ha aveva, il fascista aveva una sua faccia meridionale e aveva delle sue motivazioni meridionali che venivano dall'esperienza del movimento combattentista del primo dopoguerra, che implicavano anch'essa una radicale delegittimazione della politica e del meccanismo partitico. Quindi il, per qualche modo ho occasione di dire, citando Bordari, il fascismo ha una radice antipartitica e ha una radice iperpartitica. La critica del partito interna al fascismo è interna al fascismo nell'età regina, quindi è la l'esperienza del qualunquismo non è l'esperienza di quelli che non c'erano stati, come gli stessi qualunquisti definiscono se stessi. I leader qualunquisti, molti leader qualunquisti hanno fatto parte della classe dirigente del regime, ma è l'esperienza di quelli che c'erano stati e poi del fascismo presero un pezzo, una parte importante. Lo sbarco. Quando gli anglo-americani sbarcarono, gli osservatori ebbero l'idea di un dispiegamento straordinario di modernità, l'idea che fosse arrivato il potere della modernità. Cioè, noi abbiamo queste testimonianze, di studio storiografico di questo mare diventato nero di una straordinaria armata che mai nessuno aveva visto e mai nessuno aveva immaginato. I meridionali dunque furono i primi a vedere questa grande potenza, ma gli alleati videro come primi italiani. E ovviamente, abbiamo parlato di stereotipi, abbiamo parlato di propaganda, questa è la guerra, è anche la guerra della propaganda, no? E quindi le immagini, le ragioni per cui si combatte, le immagini dell'altro, credo che abbiano una grande importanza. Sia gli inglesi che i britannici che gli americani si sentirono confermati nei loro stereotipi, che poi in prossimità dello sbarco sono ben evidenti da questi materiali preparatori, dai vari handbook che venivano distribuiti alle truppe, agli ufficiali, tutti farciti di una retorica primitivistica, folcloristica, primitivistica. Era un'Italia tutta basata, tutta vista attraverso i legami clientelari, i legami familistici. Dunque, in questo senso, io credo, ad esempio da parte degli inglesi, non si tratta tanto di vedere quanto loro volessero salvare una, ma il fatto che per loro la rappresentazione dell'Italia era di un paese super tradizionale e non potevano essere. Quindi, come dire, la strada monarchica loro non l'avrebbero imposta, ma comunque avrebbero lasciato che fosse. In questo senso ci sono due progetti. Non saranno due, ci sono dei progetti, seppur a questo livello, che non saranno, non sarà una politica italiana nel senso di una, nel senso che l'Italia sia un luogo importante per la definizione delle politiche britanniche o americane, questo è stato detto giustamente. Però ci sono delle idee dell'Italia che sono forti e diventano importanti nel momento in cui gli americani si trovano ad amministrare questo paese. Sono idee diverse, perché quella britannica più o meno l'abbiamo accennata, quella americana È curioso, tornando al discorso della memoria, paradossale che mentre sicuramente i britannici avevano, come sono spiegato, avevano un interesse politico, militare, militare molto più grande degli americani, poi nella memoria collettiva invece i britannici quasi sono mai, i britannici non ci sono mai più. Qualsiasi intervista si faccia, i britannici manco esistono. Erano i segnalati, ma effettivamente erano i segnalati. Ma nella memoria sono stati cancellati, perché? Beh, sono stati cancellati ovviamente perché poi la superpotenza dopo è stata l'America, quindi, come dire, siccome c'è una proiezione di quello che è successo loro, dopo su quello che è successo a loro, è logico che fosse così, ma credo anche per un'altra ragione. La ragione è che c'era la promessa americana. L'America era una promessa di libertà e prosperità, che anche qui era ben nota agli italiani e ai meridionali molto di più. Dunque, io non so se l'idea della fratellanza italiana e americana, e dunque italo-americana, sia una promessa demagogica. Però c'è, e in una guerra di idee e di egemonie fu un poderosissimo strumento di egemonia. E questa cosa poi si sostanza di alcuni fatti che io cito così un po' a caso, anche traendoli da questo libro che ora è uscito, esce in questi giorni di libreria di Manuela Panti, La Sicilia e gli Alleati. Sono cose anche note, tra l'altro. I piani, il fiorire di piani fantastici su una possibile insurrezione meridionale all'arrivo delle armate americane, a causa del fascino dell'America e della rottura tra il mezzogiorno specifica, tra il mezzogiorno e il fascismo che si immaginava ci fosse, il ruolo che ebbe il servizio segreto civile, ne costruito l'OSS in questo senso, e il ruolo che gli agenti dell'OSS in Italia ebbero nell'alimentare una polemica antibritannica contro il conservatorismo dei britannici, facendo valere l'idea che gli americani avevano fatto la promessa di libertà e doveva essere è stata evocata la figura di Poletti. Charles Poletti è un personaggio molto interessante, aveva studiato in Italia. Ha detto poi di essere stato sempre antifascista, che non so se questo è vero, perché tutti poi si sono definiti dopo antifascisti. Lui sostiene di aver avuto una posizione minoritaria nella comunità italo-americana newyorkese per la sua avversione al fascismo, dovuta al fatto che avendo studiato in Italia aveva visto che cosa il fascismo era veramente. Andiamo da buono. Di sicuro però Charles Poletti non era l'uomo di Tammany Hall, come si dice. Tammany Hall si intende dire la fazione, la macchina politica, lo dico per questo tempo, la macchina politica democratica più tradizionalmente inquinata a cui si riferiva il peggio dell'influenza italoamericana nello Stato di New York. E invece Poletti era un democratico del suo piano, appartenente al gruppo riformatore che aveva sferrato un duro attacco contro la macchina politica e le sue frequentazioni gangsteristiche. E questa cosa di politico uomo di Tammany Hall significativamente non è solo un'attribuzione successiva della malevola polemica anti-americana post-bellica, ma questo è già McNeill, lo diceva, cioè, come dire, deriva dalla polemica degli inglesi verso gli americani e verso questo loro, modo facilone e troppo amichevole di fare, e da lì deriva anche originariamente la polemica con Charles Poletti, l'uomo della mafia, come tipico rappresentante della comunità sicuro-americana, così dice Macmillan, anche se in verità Poletti, la famiglia dei Poletti era piemontese. Ma ovviamente visto dall'alto tutti sono tutti gli italiani siciliani, si ricorderà anche un libro di un certo Harvey, The Bell for Adam, uscito già nel 40, poi fatto anche un film che si dice, non ne so niente. The Bell for Adam, uscito già nel 44, no? Quindi diciamo tutto avviene in tempo reale, in cui si magnifica, sembra per l'iniziativa dello stesso Poletti, in cui si modifica l'opera di un cao, Civil Air Force Officer, cioè un amministratore militare americano che nella cittadina siciliana di Licata, luogo che spesso viene considerato non di tante elette più civiche, avrebbe insegnato ai paesani come ci si comporta in democrazia, qual è la giusta strada, e alla fine avrebbe convertito tutti alla democrazia, dove non si capiva se il fascismo era il passato regime da combattere, era quello fascista, o era quello che gli era chiuso. In questo senso a me sembra che le considerazioni di politica interna di Roosevelt non siano secondarie, perché effettivamente qui siamo davanti alla costruzione di un legame simbolico destinato a antico, precedente, rielaborato attraverso il mito dell'America, destinato a tenere conto. Ovviamente, è giusto quello che se lo vede, ma questo non va visto in funzione di una proto-guerra fredda che ancora non esisteva. Francamente, vedere gli avvenimenti storici in relazione a quello che sarebbe successo dopo attraverso una finta catena di casualità come è stata fatta e come tutt'oggi si fa, soprattutto per parte di studiosi non professionisti che in questo campo purtroppo fioriscono. Non è questo, è invece la lunga tenuta di un legame simbolico, politico, ideologico, economico, importantissimo, che è quello determinato dall'immigrazione, e di cui questi sprazzi di amministrazione italo-americana, Poletti poi svolse nell'amministrazione americana in Italia, sia a Roma che anche a Milano, svolse un ruolo molto importante, va ridotto alla sua vera missione. E non a questo del fantomatico ambasciatore della mafia, casomai questo discorso va riportato all'interno di questa molto più complessa struttura di comunicazione. E questo poi avrebbe giocato nell'età successiva, che sarà anche l'età della mafia. Dunque questo concetto della fratellanza italo-americana mi pare una cosa molto importante, ed è quella che pone le basi dell'egemonia americana e spiega questa meridionalizzazione dell'Italia agli occhi degli americani, e naturalmente poi è destinata a essere una cosa tutt'altro che secondaria, tutt'altro che marginale, tutt'altro che transeunte nell'identità politica italiana del periodo dopoguerra, in cui ovviamente il mito, come tutti sanno, il mito americano prevale nettamente su quello sovietico, senza bisogno di complotti, senza bisogno di guardie, senza bisogno di nulla di tutto questo. Tutto il resto è accessorio. Quindi se per guerra fredda si intende questo, senz'altro. Se per guerra fredda invece si intende quello che sarà lo scontro tra le due grandi mitologie occidentalista americana, perché ovviamente non c'è nessuna mitologia inglese, se non tra qualche e la mitologia sovietica. Questo si è detto. Poi ovviamente si aggiungono delle considerazioni più materiali a queste considerazioni cruciali dal punto di vista simbolico. La prima, l'impatto dell'esercito americano al suo primo sbarco fu duro come l'impatto dell'esercito d'invasione in territorio nemico, con stragi civili, con stupri, con saccheggi, come si conviene un esercito di occupazione. Quindi questa riunione di affetti italo-americani, che resta una cosa importantissima, poi va commisurata sul piano della realtà. Tra le realtà comunque c'è anche il fatto che molti degli autori di questi risparmi sono subito perseguiti dalle autorità militari stesse, dimostrando la differenza tra i contendenti, diciamo così. Seconda considerazione di realtà. Quindi comunque questa è una conquista politica. Questa relazione poi amichevole è una conquista politica. È fatta non solo attraverso l'ideologia, ma fatta attraverso la politica. Tra queste politiche c'è il fatto, forse non so se già l'ho accennato, che l'amministrazione alleata nel Mezzogiorno, in Italia, nel Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno è più lento, è più lunga, è un'amministrazione molto leggera. Gli americani non hanno nessuna, gli angloamericani, anche gli inglesi, non hanno nessun desiderio se non che gli italiani se la cavino da sé. La vicenda della commissione alleata, che subito rinuncia all'ultima parte del suo nome, di controllo, perché non vuole controllare. E ovviamente questo ha due aspetti. Uno che la retorica di Herbert Foradano non ha poi tante applicazioni, perché l'amministrazione militare alleata non vuole essere scuola di democrazia. L'altra, che francamente tra le voci della pace punitiva, se una pace punitiva vuole un governo di occupazione militare vero, che qua in questo senso non c'è stato. Io ogni volta che sento questa cosa la pace punitiva, un po', in sostanza l'Italia è stata trattata benissimo, non c'è stata la pace punitiva, si è accettato il sistema della non belligeranza, il sistema della non belligeranza ha implicato queste soluzioni politico-amministrative, e nessuna delle forze antifasciste è stata realmente contrastata, e con le altre cose si possono dire. Il paese a Mezzogiorno è stato malamente amministrato da questo condominio, ci sono stati problemi grandi di ordine pubblico, problemi di mercato nero, problemi. Però tutto questo è derivato molto da cattiva organizzazione e molto proprio da questa idea di lasciare che le cose andassero per il loro verso. Quindi da questo punto di vista mi sembra, e poi alla fine ci sono state delle altre colonie e abbiamo perso anche l'Istria. Qualcosa dovrebbe succedere in conseguenza di una così catastrofica sconfitta. Quindi l'idea della pace primitiva mi sembra molto italocentrica e non è, come è stato giustamente detto, non si vede perché gli inglesi e gli americani stessi che erano stati quelli aggrediti si sarebbero dovuto trattare lì. L'ufficiale in realtà ci hanno trattato questo paese molto bene. un'ultima considerazione, tornando indietro al punto della emigrazione. L'emigrazione nel 1943, il grande flusso dell'emigrazione era molto distante. E naturalmente una delle ragioni che mi era molto distante nel tempo, per una serie di ragioni che sono di tipo macro politico o meglio economico, il grande flusso si era chiuso negli anni 20 a causa delle innanzitutto a causa delle restrizioni americane, ma comunque negli anni 30 il flusso vero, non la comunicazione perché la gente continuava a andare su, ma il flusso in uscita si era chiuso. Un altro aspetto che si era chiuso era stato un altro elemento della estroversione del mezzogiorno, le esportazioni di prodotti agroalimentari che negli anni 30 erano andate incontro a un collasso. Perché dico questo? Per dire che il mezzogiorno che compare ai meridionali con gli americani, cioè il mondo nuovo che compare nel mezzogiorno con gli americani agli occhi dei meridionali, è un mondo non recentissimo, è un mondo mitizzato come un mondo di prosperità. Il mondo in cui la gente si muoveva e in cui le merci si muovevano, e questo in qualche modo creava un meccanismo di opportunità, questo dal punto di vista del vissuto dei soggetti di cui discutiamo, anche dal punto di vista della realtà economica, perché qualsiasi studio e ragionamento sul prodotto interno lordo italiano, sulle differenze tra nord e sud, mostra che il periodo catastrofico di allontanamento tra sud e nord non è di tale grado perché si continua a dire, non è certamente l'età repubblicana in cui anzi succede sia pur con lentamente un meccanismo opposto, ma sicuramente il periodo fascista è il periodo comunque il periodo che va dall'inizio della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra mondiale. Molto spesso si ragiona di questi argomenti facendo valere la soluzione delle politiche di incentivazione, come si dice, speciale, ma in verità, secondo me, se la guardiamo su un punto specifico, se la guardiamo sul lungo periodo, molto più importante è il problema dell'apertura e della chiusura dei mercati. In questo senso gli americani venivano a portare una mitologia che era assolutamente comprensibile dalla popolazione italiana e che faceva parte profondamente di quella esperienza storica. Allora, questo spiega perché il mito funziona, questo spiega perché in qualche modo l'America apparirà la grande protettrice del paese d'Italia. Questo spiega perché il punto di vista dell'immigrato su questi aspetti non è un punto di vista secondario, ma viene a inserirsi nel mainstream dell'esperienza storica italiana per questo aspetto. E naturalmente, concludo, io spero che questo aiuti a capire che siamo davanti alla storia che cambia, a una storia di mondi aperti e che sognano l'apertura e che pensano l'apertura. Il legame transoceanico tra America e il Mezzogiorno d'Italia fa parte di questa prospettiva di apertura e fa parte della storia italiana sul lungo periodo, o però per quello che è storia contemporanea può essere definita. Grazie. situazione, come avevo anticipato in alcune cose che avevo già dette, apro senz'altro la discussione. Chi vuole chiedere un'osservazione di intervenire? Devo interpretare il legislatore che ha firmato adesso il suo intervento. Ho sentito da altre persone, miei amici, che lo Paco in Sicilia abbia un collegamento con la parte di Colombia, che aveva imposto lo Paco agli altri che altrimenti avrebbero portato a Sicilia e sarebbero andati direttamente in Calabria. Ecco, volevo sapere se c'è il vero oppure se non vedo voci di messo in giro. Grazie. Avete qualche domanda? Sì. Diamo solo delle prescritte. Io ho altre osservazioni, diciamo, intorno a questa tematica delle agropiane. Allora rispondo, francamente rispondo anche se non ne posso più. Cioè, saranno 30 anni che tiro spesso una palla. Non riesco a convincere nessuno perché nessuno si vuole convincere. La mafia sudamericana non avrebbe nessun ruolo nella gestione del banco, come tutta la documentazione dimostra. Quindi quella che c'è e quella che non c'è. Quella che c'è dimostra che non è vera, quella che non c'è non dimostra che è vera. L'idea poi che gli angloamericani abbiano scelto la Sicilia perché, c'è, perché si sono fatti convincere, no, ma mi pare francamente scoccettata. La Sicilia è stata scelta per delle ragioni che tra l'altro sono già state dette e che non sono io, che non sono esperto di questo, di storia militare, di storia delle relazioni internazionali, non ho niente da aggiungere su questo. La mafia, il coinvolgimento della mafia sicuro-americana è esistito veramente, ma è una questione che mi pare è stata citata, va inserita nella questione che mi pare Varsori diceva all'inizio. Il problema degli americani era che gli americani erano l'amministrazione russa e comunque un po' tutte le autorità americane erano in panico per l'idea che ci fosse una quinta colonna italo-fascista che avrebbe sabotato gli sforzi bellici dell'America. Era un panico, come è stato detto anche questo, assolutamente ingiustificato, perché anzi tutti i provenienti che erano stati filofascisti si precipitavano nel fronte consortiale, tra l'altro erano già prima e i gangster che italo-americani o mafiosi, se volete dire, che facevano parte di quel gruppo, si precipitavano anche loro, ma ne ottennero maggior vantaggio. Il caso più tipico è quello del Project Underworld, che fu messo su nel porto di New York in collaborazione col sindacato dal servizio segreto della Marina, in collaborazione con il sindacato borderline che si chiamava ILA e che portò alla liberazione del capo mafia dell'Antiluciano. Ma da questo a dire che ci fu una collaborazione dello sbarco in Sicilia ne passa, anche se poi, come spesso fanno i mafiosi, Luciano e soci hanno cercato di prendersi anche il merito di aver vinto la seconda guerra. Ripetendo sempre queste cose a prescindere dalle ricerche che hanno dimostrato che non mi fornirono, noi continuiamo a dare ai mafiosi la patente di aver vinto il nazismo, che non è una cosa bella. Io vorrei fare un'osservazione, c'è una domanda, è sembrato un pochino deciso, diciamo, l'affermazione non c'è stata rispetto. Perché non possiamo aprire tutta una risposta, è stato un fenomeno molto composito e molto complesso. Anche quelle manifestazioni, dalle quali sono andate in acqua, ma le tante altre, in cui sono state rivolte di militari, rivolte di cittadini, più o meno, perché non devono far parte della resistenza? Perché non dovremmo precisare che se non c'è stata resistenza nessuno, però c'è stata resistenza nessuno, c'è una quantità enorme di cittadini del meridione che sono andati a morire con battaglie partigiane del nord. E questo è una piccola distinzione che possiamo fare. Le osservazioni sono entrambe giustissime, la seconda in particolare l'avrei potuto dire anche apprezzata, che dovremmo dare il suo contributo alla resistenza attraverso molti militari meridionali scontati nell'Italia settentrionale che poi stanno in montagna a caso del nord di tutti, quello che come coloniali e quindi la resistenza attraverso quanto agli atti di resistenza a carattere nazionale, però non c'è dubbio che poi si sia sedimentata nella memoria politica meridionale molto di meno. Per questa ragione, per quanto noi sappiamo che abbiamo ricostruito molti casi di ex partigiani che poi tornando nel mezzogiorno hanno svolto importanti ruoli politici, però nel complesso mi pare che non si possa parlare di una sedimentazione, non potrebbe essere altrimenti. Quanto agli atti di resistenza delle popolazioni meridionali contro i tedeschi, sì, ci sono stati e hanno avuto anche importanza, li possiamo ricordare, li possiamo celebrare. Peraltro ci sono state anche altre resistenze contro le truppe francesi che si sono resi responsabili di stupri di massa. Non daremo un significato politico rilevante questi eventi. Il punto fondamentale è che se noi storicamente vogliamo valorizzare o anche studiare, perché poi questo bisogna studiare, se non si sa, questi eventi sarà utile, importante, è stato fatto, può essere fatto. Se noi vogliamo creare una falsa simmetria dicendo che la resistenza è un fatto nazionale perché c'è stata se no e ha avuto lo stesso impatto simbolico politico di lungo periodo, qua rischiamo di fare un'operazione soltanto celebrativa ma che ha una sostanza di verità piuttosto povera, e appunto dobbiamo valorizzare episodi che poi nel complesso possono anche essere considerati marginali, quello sì, automatiche reazioni. La citazione che faceva lei sul com'è le reazioni primitive, le reazioni primordiali non esistono ovviamente, perché tutte le reazioni sono storicamente determinate, la reazione primordiale è primordiale che sia passa attraverso una costruzione culturale come un patriottismo. Tu pensi che quello sia come te e che gli altri sono tedeschi, cioè il patriottismo non è niente di primordiale, è un fatto politico umano. Quindi da questo punto di vista sono categorizzazioni deboli e inaccettabili, però possono esserci altri elementi. Ad esempio prendiamo l'elemento dell'identità municipale, che non è più importante, un'identità importante, funziona sia a nord che a sud, se si crea una solidarietà o familiare o municipale contro un'aggressione esterna. Questo c'è sia a nord che a sud. Però per poi avere per dare un senso politico rilevante a queste cose ci vuole, come dire, un contesto storico che complessivamente nel sud non si è realizzato, mi sembra che non si potesse realizzare, e quindi da questo punto di vista diciamo pure che la resistenza internazionale, perché vi parteciparono militanti di ogni parte d'Italia, ma diciamo che poi la ripetuta locale sulle culture politiche locali è ben diversa. Quanto Giovanni e Napoli sono stati rapidamente cancellate dalla memoria cittadina, eppure sono un grande evento, quello è un grande evento, una ragione ci sta. Va usato con grande cautela. considerarono la pace che venne imposta, non solo dall'inglese, perché cambia il senso in generale, come una pace punitiva rispetto alla belligeranza, rispetto alla resistenza, rispetto al fatto che l'Italia del 1947 era un'Italia che cercava la strada della democrazia e che non era l'Italia e che non era l'Italia fascista. Quanto a come la vissero a interpretare gli inglesi, ma dal loro punto di vista certamente era una pace giusta, che però non è che un matrimonio implicava anche una punizione, un'impunizione intesa in senso pedagogico, nel senso che avrebbe insegnato agli italiani qualche cosa. Se possiamo parlare di punizione, allora forse il concetto un po' più complicato e sta forse in come gli italiani hanno percepito i toni e i modi utilizzati dalle autorità inglesi nei confronti dell'Italia, che certo in alcuni in tanti casi non erano particolarmente né simpatici né gradevoli e che sono rimasti tali, voglio dire, non dimentichiamoci, fino a metà degli anni 50. C'è una forma di disprezzo, di animosità nei confronti del popolo italiano che permane. Poi, se io fossi stato in inglese, forse l'avrei vista anch'io nello stesso modo. Ci sono degli aspetti che vanno, se vogliamo, al di là delle scelte politiche, ma che riguardano, se vogliamo, gli atteggiamenti psicologici, che poi trovano, diciamo, le loro ragioni anche in, voglio dire, delle radici culturali molto profonde. Devo dire, quando appunto fammi il suo modo, perché devo dire, ho fatto alcuna cosa stimolante, mi sono divertito a vedere le posizioni dei diplomatici inglesi. Non dimentichiamoci che i diplomatici inglesi degli anni 40 e 50 rappresentano le vite di questo paese. Se si va a vedere la foreign office list, sono coloro che vengono da alcune scuole e da due università. Basta, e non si va oltre. E gran parte dei loro atteggiamenti e della loro valutazione nei confronti degli italiani in realtà sono in larga misura le opinioni che i viaggiatori inglesi del Gran Cuba hanno nei confronti del popolo italiano tra la via del 700 e l'800. Questo atteggiamento che oscilla sempre tra tutto sommato alla fine dei conti l'Italia è bellissima, l'Italia ha delle cose stupende, ci sono delle ha avuto una grande cultura, una grande civiltà, peccato che siano italiani. Perché? Perché gli italiani sono in fondo hanno tradito la loro grandezza, ma non per loro colpa, naturalmente per alcuni secoli di papismo, non dimenticare, questo è un altro elemento che gioca, perché sono stati corrotti nel corso dei secoli, però pensare all'atteggiamento, voglio dire, l'antimaterialismo, no? O la famosa battuta che esiste in Gran Bretagna, che la mia prima esperienza accademica l'ho fatto passando un anno in un college inglese. Devo dire, mi sono sentito tutti i luoghi comuni, tutti gli stereotipi che ho vissuto di persona. La mia madre, che era una persona colta, insegnante di letteratura italiana all'Università di Reggio, mi diceva, certamente lei la mattina facendo si lavava a canta le opere, ma perché? Ma perché? Era convinta che fosse così. Era un classico stereotipo sull'Italia. Poi naturalmente noi abbiamo stereotipi sugli altri popoli, non è che ognuno ha il suo. Diciamo che per un certo periodo di tempo il fondo degli stereotipi della classe dirigente inglese fino alla seconda guerra mondiale finirono con il prevalere alcuni aspetti positivi. Il fascismo ha visto in fondo anche come reazione alla corruzione e alla decadenza dell'Italia. La seconda guerra mondiale e il periodo immediatamente successivo ha visto invece come la conferma della corruzione e della decadenza italiana. In questo caso, devo dire, l'atteggiamento di molti paesi è la punizione, una giusta punizione, perché insegna al popolo italiano alcune regole del gioco. Cioè, gli italiani non hanno rispettato le regole del gioco, qualcuno le deve insegnare, siamo noi che le dobbiamo insegnare. E devo dire, non è che fosse. C'è una legge di Salvini scritta nel 44 del Questore Rossi in cui, devo dire, è molto più pesante. Questo Salvini dice chiaramente l'intenzione della Gran Bretagna è quello di ridurre l'Italia alla condizione dell'Irlanda. L'Irlanda, voglio dire, potere, indipendenza. Io credo che sapremmo sbagliarsi. Però questo ci dà il senso di le percezioni reciproche. In questo senso, naturalmente, che possiamo parlare di pace punitiva. Poi, se fosse una punizione o meno, questo era un concetto, devo dire, che va a giudizializzare in qualche modo della politica. Rientra nel campo delle valutazioni etiche, morali. L'Italia doveva pagare per il fascismo, 250.000 italiani e dalmati dovevano pagare per quello che è accaduto. È una domanda a cui è difficile rispondere, ma che a mio avviso va al di là, insomma, delle questioni di carattere storiografico. E l'altra osservazione, io sono finalmente d'accordo con quello che diceva il collega Lupo, effettivamente se non c'è una politica americana c'è però l'immagine degli Stati Uniti, è quello in fondo che poi si impone l'immagine della modernità e certamente il legame con il sud e con le migrazioni, non è questo veramente fondamentale, sono degli aspetti importanti. Poi in questa azione anche sulla SS c'è molto, io trovo, di americano, perché è pragmatico ma a volte anche un po' di improvvisazione, se io penso al ruolo svolto da Max Korb, le sue memorie sono molto divertenti, no? Max Korb è uno dei più importanti agenti dell'OSS in Italia, non viene scelto Max Korb. Max Korb dice delle sue memorie, viene arruolato nell'esercito americano, lui è naturalmente di origine italiana, si ricorda bene di origine siciliana, dice scrivo una lettera ai miei comandi e dico, siccome io sono di origine italiana, io so come si deve trattare con gli italiani. Provate a pensare la stessa cosa, non so, in un paese come l'Italia o la Germania. Negli Stati Uniti il Corvo viene convocato e dice, ah, abbiamo un colloquio, un interview, benissimo, lei è questo ragazzo giovane, sa quello che vuole fare. E la soltanto semplice, lo nominano subito ufficiale. Voglio dire, in Gran Bretagna questo tipo di scelta non sarebbe mai stato più. Questo è un po', se vogliamo, è l'atteggiamento degli Stati Uniti. L'altra questione a proposito dell'immagine degli americani in Italia, io qua ho studiato questo, lo avrei ripetuto in un precedente convegno, lo dico ai miei studenti, però questa è una cosa che hanno anche gli italiani. Se noi prendiamo, dico sempre, prendiamo il film Paesano, che è un film che diciamo che è neorealista, io dico sempre che è molto poco realista. Perché se prendete tutti gli episodi, un cineasta di sinistra che fa la situazione dell'America, perché in tutti gli episodi voi trovate la controparte degli italiani sono sempre militari americani e generalmente la visione che si dà è sempre una visione positiva, dal primo episodio della Sicilia all'ultimo della Valle del Po, e ci sono sempre gli americani, quando noi sappiamo che la maggioranza di coloro che hanno combattuto la campagna d'Italia erano le truppe del Commonwealth. Quindi non solo gli inglesi, tutti gli altri, più i polacchi, più i brasiliani, più tutti quelli che possiamo, chiaramente. E però, voglio dire, persino un regista neorealista, in fondo ci dà un'immagine positiva di quello, delle truppe americane. L'unico episodio in cui si vedono degli inglesi è quello di Firenze, e l'immagine non è positiva, ma un'immagine critica. Quindi, voglio dire, questo ci dà un po' il senso di come gli italiani hanno vissuto. Poi vedete, non c'è la scelta della politica americana, cioè c'è la scelta della politica americana, c'era qualche cosa di precedente, e qui a mia condizione, Salvatore Lupo l'ha detto con chiarezza, c'era tutta l'esperienza della migrazione, dei rapporti con l'America, del mito dell'America come il luogo dove gli italiani avrebbero fatto fortuna. Però magari non l'hanno fatto, ma l'idea è che sarebbero andati in America a fare fortuna. Più naturalmente non dimentichiamoci, la propaganda americana durante la prima guerra mondiale, il visionismo eccetera, di un certo periodo.